5D. Ascolta e trasforma. Il ragazzo ha un quaderno vecchio. I ragazzi hanno dei quaderni vecchi. Il fotografo ha un rullino nuovo. I fotografi hanno dei rullini nuovi. Il professore ha un registro rosso. I professori hanno dei registri rossi. La signora ha un cappello bello. Le signore hanno dei cappelli belli. La ragazza ha un figlio piccolo. Le ragazze hanno dei figli piccoli. La signorina ha un quadro moderno. Le signorine hanno dei quadri moderni.